Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Stress, quante volte lo tiriamo in ballo, è una parola che è entrata prepotentemente nel nostro vocabolario quotidiano. Lo traduciamo come difficoltà di stare nel mondo, vi piace? Difficoltà a ritagliarsi, a difendersi degli spazi di benessere proprio perché siamo sopraffatti da un'infinità di stimoli che ci schiacciano, che ci mettono sotto stress. 800 24 00 24 per chi si sente già adesso, sono le 11:10, sotto stress, ma anche per chi ha dato scacco matto allo stress, così magari ci dà in diretta la sua ricetta vincente. Qui in studio con me Alessandra Callegari, counselor, esperta di bioenergetica e formatrice. Ciao Alessandra. Ciao Nicoletta, ciao a tutti. Esperta anche del nostro Daily Lab, che vi invito ad andare a consultare quotidianamente. Lo trovate come sempre sul sito di Radio 24, il nuovo sito, ma in studio con me c'è anche il dottor Riccardo Sciacchi, psicoterapeuta e direttore della scuola CBIG. Buongiorno. Buongiorno di Milano. Buongiorno anche a lei. Sono le 11, dicevamo Alessandra, le 11:05, la giornata è iniziata. Ci sono delle giornate che iniziano e noi diciamo, guarda, davanti ho una giornata, non vedo l'ora che finisca. Già quella ci dà un'indicazione di come ci poniamo, di quanti stimoli dobbiamo affrontare, metabolizzare, digerire, evitare. Ci aiuti a capire un po'? Già mentre lo dici mi viene da dire tiriamo un sospirone verso il basso, no? E cerchiamo di lasciare andare. E soprattutto colgo l'immagine che hai detto, no? Cerchiamo di non vedere una montagna da scalare, ma di immaginare che la nostra giornata, come tutte le giornate del resto, è fatta di collinette, è una strada a curve, per cui ogni tanto c'è qualcosa dietro l'angolo e ogni tanto c'è anche la strada spianata. Questo dovremmo fare, ma voi come immaginate la vostra giornata? Montagna o collina? 800 24 00 24. Alessandra Callegari ha aggiunto anche le curve. Dottor Sciacchi, partiamo comunque da un dato positivo. In alcune situazioni questo stress, questa un po' frizzante agitazione può essere un potente alleato, perché ci aiuta proprio a rendere al massimo durante magari un colloquio di lavoro, di fronte a una decisione da prendere, un appuntamento, un esame, perché quando siamo ben stressati siamo anche più concentrati, diamo il massimo. Se definiamo lo stress come necessità di adeguarci a una situazione nuova, è chiaro che ha a che fare con la nostra percezione delle nostre capacità e con la nostra percezione della difficoltà del compito che ci attende. Quindi se sentiamo un equilibrio tra questi due, sentiamo uno stress positivo che ci stimola, ci fa rendere al meglio delle nostre possibilità. Se percepiamo invece che la situazione è troppo difficile per noi, allora andiamo in quello che si chiama distress, che e poi quello che normalmente si chiama stress nel linguaggio comune, che tipicamente dà ansia, e quindi noi cominciamo a sentire questa sensazione negativa che ci fa rendere al peggio delle nostre possibilità. Tanto che a volte, come si dice, ci manca il respiro. Ci manca il respiro, sentiamo le farfalle nello stomaco, sì, e così via. Il cuore che batte. C'è chi si sente un po' bollente. E chi si sente gelido invece. E chi si sente proprio le mani, ad esempio. Le mani che diventano fredde. Fredde e un po' sudate. Sì, è una reazione fisiologica, perché la paura, l'ansia fa ritrarre il sangue verso le parti più interne del corpo e quindi le mani restano fredde, mani e piedi tipicamente restano freddi. E queste sono le mani e i piedi di chi, quando pensa alla sua giornata, pensa alla giornata, no? La immagina come una montagna. 800 24 00 24, raccontatemi bene, montagna o collina? Dottor Sciacchi, quindi noi regaliamo agli amici che ci stanno ascoltando e che stanno combattendo con una serie di stimoli e devono ancora capire se sono in eustress o in distress, un esercizio che ci fa bene. Facciamo una sorta di pausa caffè ricaricante. Ma per esempio, siccome lo stress ha a che fare sempre con un'aspettativa negativa, quindi con una proiezione nel futuro, proviamo a centrarci sul presente, per esempio chiudendo gli occhi e provando a seguire con la nostra attenzione il respiro, sentire il respiro che entra, il respiro che esce, cercare di portare il respiro verso la parte più bassa dei polmoni invece che respirare solo con la parte alta toracica. Smollare il diaframma, piano piano concentrare. Noi insistiamo molto, dottor Sciacchi, sul respiro. Abbiamo anche degli esercizi che sono stati suggeriti per noi da Daniele Belloni, che è un maestro di yoga, che abbiamo messo sul sito e che piacciono molto ai nostri ascoltatori, perché ci focalizziamo molto sul respiro, che è quello strumento, quel ponte tra mente e corpo. Esattamente. Esattamente, è proprio quello che ci permette tra l'altro di evitare la fuga nella mente, quindi la fuga nel futuro drammatico che immaginiamo, e ci centriamo sul nostro corpo e sulle nostre emozioni. Intanto iniziano ad arrivare i messaggi. Alessandra, per visualizzare la giornata, per alcuni è una strada pianeggiante, per altri una galleria in salita. Ah, ecco, per quindi... cui ci sono anche, io ho limitato la, vi ho detto è una montagna o una collina, ma lasciamo libero, vero? Assolutamente sì. Potete scrivermi anche, ci può essere galleria, più buio o più luce, galleria in salita, e quindi è ancora abbastanza più drammatica. 800 24 00 24. Ma noi, quando diciamo sono sotto stress, cosa intendiamo esattamente? Volete provare a raccontarcelo? Se avete la sensazione che il vostro livello di stress vi abbia in qualche modo tolto qualcosa, si dice fatto ammalare, chiamateci subito, perché insieme al dottor Sciacchi e ad Alessandra Callegari cercheremo di potenziare, nutrire la parte buona dello stress. Quella ce la vogliamo tenere, perché ci fa bene. E ci fa bene, Jimmy! Eccolo, a proposito di stress che picchia anche fisicamente, si avvertono tensioni muscolari, mal di testa, mal di schiena. Il dottor Sciacchi diceva appunto ci manca il fiato. Alessandra, ci sono proprio delle tensioni. Certo. Molti localizzano ad esempio sulle spalle. Infatti, e al di là del fatto che le tensioni muscolari possono derivare ovviamente da posture scorrette, certo, eccetera, però questa sensazione di tensione, di peso, effettivamente in certe persone è legata proprio alla sensazione di dover dare risposte più di quanto uno sia in grado di rispondere, sostanzialmente. Certo. Allora è chiaro che tenere sempre presente, ne abbiamo parlato altre volte qui da te, che è possibile fare anche piccolissimi esercizi di meno di un minuto, lo raccomando, meno di un minuto, quindi davvero lo possiamo fare in qualsiasi momento, e anche se siamo sul luogo di lavoro, perché così come andiamo in bagno a fare la pipì, sì, bene, andiamo in bagno, ci chiudiamo lì se non vogliamo farci vedere e ci molleggiamo scrollando le braccia, quindi facendo anche proprio un movimento con le braccia che agisca sulle spalle e agisca quindi sulla parte alta del corpo, no? Respirando liberamente, io suggerisco di soffiare un po', ve lo faccio vedere in questo modo, anzi sentire, e può sembrare incredibile. Sì, uno dice, ma che cosa mi sta dicendo con tutti invece i problemi che ho? 30 secondi di questo esercizio fanno bene. Ecco, e soprattutto non costano nulla. E non costano nulla, è gratis. È rapido, è poco faticoso. Non fa danno e non disturba. Ad alcuni può veramente cambiare almeno il minuto, quindi farci riprendere fiato per affrontare la situazione a mente un pochino più serena. E libera un po' la mente. A proposito di mente, dottor Sciacchi, ciascuno reagisce in modo diverso, questione di carattere, altre componenti, perché ci sono delle persone che sanno metabolizzare bene lo stress, evidentemente hanno un'attitudine a vedere anche le cose, perché noi oggi vogliamo proprio raccontare un po' la difficoltà che tanti di noi hanno nel mantenersi, nello stare nel qui e nell'ora, però altri invece fanno davvero fatica. Quali sono le componenti che entrano in gioco? Ma sia nella creazione dello stress che nella sua gestione c'entrano fattori storici, personali, familiari, quindi tendenzialmente si impara a gestire lo stress se c'è stata anche una famiglia che ha insegnato che le cose non sono così drammatiche, che ha insegnato che la persona può sentire delle risorse dentro di sé, delle capacità, e quindi a questo punto si riesce a ridimensionare certe situazioni anche apparentemente piuttosto difficili. Il carattere stesso però non è un a priori, ma è qualcosa che è creato dall'esperienza, dal rapporto con la famiglia, con la scuola e così via. Io volevo apportare la vostra attenzione su alcuni cambiamenti che avvertiamo nel corso della giornata o nel corso degli ultimi mesi. Qualcosa è cambiato. Noi solitamente, proprio perché è difficile poi riprendersi in mano e modificare alcuni atteggiamenti, diciamo, beh, questo è un periodo così perché sono stressato, tanti lavori, tante preoccupazioni. E con questo diamo, no, la spiegazione per l'insonnia, per il nostro nervosismo, magari siamo più nervosi, più impazienti, la nostra mancanza di energia, magari non abbiamo più voglia di andare in palestra, di fare attività fisica, cambiamo, tutto ci diventa faticoso e ci prendiamo questo periodo, no? Ci mettiamo dentro la bolla e diciamo, beh, è un periodo e sono sotto stress. Attenzione, perché è proprio in questo periodo invece che potremmo fare qualche cosa, Alessandra. Sì, e tu dici giustamente, abbiamo una sorta di sensazione di non farcela, no? E questo è quello che viene tra l'altro portato spesso, no, dalle persone che vogliono farsi aiutare in un momento di difficoltà. E mi viene da dire che va proprio fatta scattare una levetta in qualche modo. Sì. Io suggerisco, e anche questo potrà sembrare buffo o sciocco, ma in realtà funziona, anche di mettere dei post-it in casa, cioè in cucina, in bagno, in camera da letto, sul computer al lavoro, quasi come per ricordarci, no, di fare qualcosa e di muoverci. Perché è vero che tanta gente che magari potrebbe andare in palestra non ci va perché dice impiego tempo, non ho il tempo, eccetera, no? Ma come dicevi tu, sono veramente delle risorse che noi già possediamo e che vanno in qualche modo messe in moto, fatte scattare, no? Una levetta, un memo, una sveglia, un... Abbiamo tutto l'occorrente. Un campanello d'allarme. Che cos'è questo coso? Oh, è una mia piccola invenzione. Sono radici, le sbuccio, le affetto, le friggo. Omelette dei titani! È fatta con 8 dozzine di uova. Vassoio dei pesci. Oh, è soltanto per farti riposare un po'. E un piccolo toast per gustarlo meglio. Lo stress può anche giocare con l'ago della bilancia. Ci sono persone che quando sono sotto pressione hanno degli attacchi di fame e spiluccano e non finiscono mai. Altre persone invece che a cui si chiude, come si dice, lo stomaco. In linea con noi abbiamo il nostro dottor Filippo Ongaro. Buongiorno dottore, buongiorno, bentornato. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Quando siamo sotto stress, a volte tiriamo anche in ballo il cibo. Mangio perché sono stressato, lo diciamo, a volte invece non abbiamo così chiara la situazione, ma al cibo ricorriamo proprio per placare un'ansia. Ma Nicoletta, direi il cibo è senza dubbio l'ansiolitico e l'antidepressivo più naturale e più facile da reperire per tutti noi, quindi senza ombra di dubbio oggi è riconosciuto che c'è un legame molto stretto tra la condizione di stress e di pressione costante in cui la stragrande maggioranza di noi vive e il tentativo di ricercare nel cibo proprio una forma di appagamento e di rilassamento. Chiaramente questo ha un risvolto positivo, un risvolto negativo, cioè il positivo è che effettivamente il cibo può avere delle proprietà calmanti e che favoriscono il buon umore. Dall'altro lato però il fatto che se ciò diventa una sorta di dipendenza non controllata e che si rivolge a alimenti che hanno delle caratteristiche metaboliche che non sono salutari, ecco che allora diventa una delle ragioni principali del sovrappeso, insomma. Ho una domandina per lei, dottor Ongaro, che mi è stata suggerita, è una domandina intelligente che mi è stata suggerita al 349-238-6666. Ne approfitto per dire che potete seguirci anche su Facebook e su Twitter. Come fare a riconoscere la fame nervosa, la fame da ansia, da stress, da invece una fame normale? Beh, la fame da ansia e da stress è la fame tipica dello spiluccare, cioè proprio quella del ricercare costantemente qualcosa anche in una sorta di stato di sovrappensiero, cioè non è una azione che parte da una necessità metabolica, sento fame, in effetti sono passate parecchie ore da quando ho mangiato l'ultima volta, no, è tutt'altro, è proprio una situazione in cui in maniera quasi inconsapevole finisco con andare alla ricerca di ciò che trovo attorno a me. E del resto questo si vede quasi sempre nelle situazioni di sovrappeso. Cioè voglio veramente sottolineare che questo legame tra situazione di stress e comportamento alimentare errato è estremamente importante. Qualsiasi approccio oggi alla perdita di peso deve passare attraverso anche una riduzione dello stress, delle tecniche di rilassamento, cioè a prendere sul serio questo legame mente-corpo che per troppo tempo è stato messo un po' in disparte, insomma. Allora, dottor Ongaro, possiamo, credo, dare due generi di consigli. Lei ha detto che il cibo può essere un antistress formidabile e quindi consigli per prendere dal cibo tutto il meglio, e poi vorrei invece dei consigli per chi naturalmente si accorge anche dalla sua descrizione di piluccare di continuo, di avere questo atteggiamento un po' stressato nei confronti del cibo, che cosa deve fare per ritornare ad un rapporto più sereno con il cibo. Ma direi, allora, per il primo punto direi che bisogna stare attenti a non demonizzare troppo i carboidrati. Noi ne abbiamo parlato tante volte di questo, sì. E in effetti non abbiamo mai detto che i carboidrati vanno eliminati completamente, come spesso va di moda oggi, sì. Perché in effetti i carboidrati hanno questa capacità di favorire l'entrata nel cervello del triptofano, che è l'aminoacido da cui si forma poi la serotonina. Sì. In effetti nei regimi iperproteici o comunque nei regimi in cui i carboidrati vengono eliminati completamente, l'umore è una delle prime cose che non tiene e che si fa sentire in maniera poco piacevole. Quindi i carboidrati scegliamo però quelli giusti, scegliamo quelli integrali che non solo avranno un'azione ancora più potente in questo senso, ma ci faranno poco male sul piano invece metabolico, della glicemia e dell'insulina, di cui abbiamo parlato molte volte. Sull'altro aspetto, lì in realtà non è una questione quindi legata... Mi scusi, dottor Ongaro, se io dovessi fare un titolino, la dieta antistress del dottor Ongaro sarebbe... Usa carboidrati in quantità corrette ma ben distribuiti durante il giorno di tipo integrale per favorire una tenuta dell'umore positiva. Poi ci sono altri alimenti, per esempio l'avocado, che non c'entra con i carboidrati, è noto per avere un'azione chiamiamola positiva sull'umore e sullo stress, i pistacchi, il latte che diciamo di cui abbiamo discusso nel bene e nel male molte volte, ma è noto avere una proprietà positiva in questo senso. O mi viene in mente, non so, il tacchino, che è una fonte molto buona di proteine e anche molto ricca di tirosina, che ci aiuta a formare dopamina, che sì, è un altro neurotransmettitore. Tirosina tira su, dico io. Sì, non diciamo va. Che in effetti è poi da là può provenire un certo tono energetico, una voglia di fare, che poi si ripercuote anche, diciamo, nell'attitudine verso l'esercizio, sì, fisico, eccetera. Mentre per il discorso diciamo del comportamento alimentare, lì sono molto più dei trucchi pratici, cioè la prima cosa è tenere meno cose che ci possono far male a portata di mano. Certo. È chiaro che se io ho attorno a me in ufficio 7 pacchetti di caramelle, mi viene naturale, ovviamente, prima o poi al telefono, senza nemmeno pensarci, di cominciare a mangiarle. Quindi fate un po' di repulisti. Eh sì, fare un po' di repulisti, evitare di mangiare direttamente dalle confezioni, per esempio. Cioè tirare fuori il cibo, metterselo nel piatto, non prendere con le mani dalle confezioni, perché lì non si sta più nelle proporzioni, non sì. si vede effettivamente quanto si sta mangiando. Quindi sono dei per esempio anche distribuire i pasti correttamente nel corso della giornata, in modo da non arrivare a casa troppo affamati, allora uno in attesa di mangiare si è già divorato mezzo frigo. Cioè sono molto più questioni di gestione del comportamento. Proprio comportamento. Sì, assolutamente. Grazie allora, dottor Ongaro, noi ci sentiamo presto. Grazie, io ho appuntato la dieta antistress del dottor Ongaro, naturalmente la metteremo sulla nostra pagina. Dottore, torni presto, anzi ci sentiamo prestissimo. Buona continuazione. Buona giornata a lei. Igor da Catania e Marinella dalla provincia di Milano. Igor, buongiorno. Buongiorno, mi chiamo per dire un problema mio, soprattutto quando sono sotto stress. Vengono degli attacchi di coliche. Sì, perché la pancia è il tuo punto. Qualche cosa, qualche infezione intestinale, invece poi mi passava... Quando sono proprio stressato, perché mi deve causare questo? Perché lo stress picchia la pancia di Igor, dottor Sciacchi? Ognuno è classico, di noi, sì, è un classico che non tramonta mai. Sì. Ognuno di noi ha una zona del corpo che è la meta dove si appuntano le somatizzazioni, e il colon proprio è un classico luogo, e questo disturbo si chiama sindrome del colon irritabile ed è proprio un disturbo tipicamente psicologico che non ha nessuna base organica, in effetti, quindi solo la lavorando sulla psiche si può far passare. Naturalmente, dopo che si sono, come diceva Alessandra, escluse, perché magari... Naturalmente, ecco, naturalmente. Però lavorando sulla psiche, regali a chi ha la tremarella alla pancia, classica ed esame come Igor. Qual è il consiglio che si sente di dare? Come si può portare la mente altrove? Si può lavorare o sulla situazione o sull'emozione, cioè sì, se è possibile evitare in qualche modo le situazioni che provocano questi generi di risposte, tanto vale. Se no, cercare di lavorare sull'emozione, cercando di gestirla o portare l'attenzione su qualcos'altro, oppure sentire, diventare consapevoli delle risorse che si hanno per gestire la situazione. Ad esempio, Grazia da Roma ci scrive: prendere la vita non troppo seriamente, solo una situazione temporanea, così si rassicura la nostra Grazia da Roma. Dare meno importanza delle cose inutili. Mentre il dottor Tibaldi di Torino ci scrive: la respirazione lenta è fondamentale per riequilibrare il bilancio ematico che è alla base di molti sintomi somatici dell'ansia. Abbiamo ancora Marinella che ci chiama dalla provincia di Milano. 800 24 00 24. Buongiorno Marinella. Buongiorno, pronto? Buongiorno, siamo qua. I complimenti per la trasmissione innanzitutto, vi seguo sempre. Grazie. Ascolti, guardi, io ho un piccolo problema, io ho 57 anni, praticamente sono entrata in menopausa un anno fa e ultimamente in questi mesi ho un problema, cioè praticamente mi brucia tantissimo la lingua e il medico mi dice che è un fattore di stress. Ho fatto tutte le analisi del caso per scongiurare, non so, eventuali patologie strane tipo, sì, non so, diabete o non ho nulla di queste cose, però ho questo grosso problema che non riesco assolutamente a debellare. Cosa si può fare? Allora, un caso complicato, sì, perché per radio, allora sul discorso lingua, sicuramente c'è è difficile, una lettura. È difficile, facciamo, dare una risposta Marinella, specifica. Marinella, lei stia lì, perché io voglio dare tempo ai miei esperti di occuparsi della sua lingua. Nello stesso tempo ho Filippa Oreggi che mi sta dicendo: i mercati, andiamo! Essere e benessere. E dovrei abbronzarmi un po', scatenarmi nei dance floor, eliminare le occhiaie, manco di concentrazione, non ho volontà. Soffro lo stress, io soffro lo stress, sono stanco e fuori. Guardi, balla, Filippo. Intanto bentornati e benvenuti. Abbiamo lasciato in sospeso la nostra amica Marinella, 57 anni, un problema della cosiddetta bocca urente, c'è anche una sindrome, come mi stanno su... Io ho degli ascoltatori fantastici perché mi scrivono e mi suggeriscono delle domande che solitamente sono molto interessanti, e poi alcuni ascoltatori mi suggeriscono la sindrome della bocca che brucia, della bocca urente, che è una sindrome di cui noi abbiamo parlato, dovreste trovarla nell'archivio. Altri ascoltatori mi dicono una carenza di vitamina B. Allora, noi accantoniamo tutta questa indagini e queste diagnosi cliniche, perché la Marinella, l'avremmo consigliato la stessa cosa, ha già fatto tutte le analisi, ma ha questo problema, cioè della bocca che brucia. Allora possiamo ipotizzare una lettura cosiddetta psicosomatica, cioè escludendo tutte le cause, le possibili di sindrome, carenze, eccetera. Lei dal medico è andato, il medico ha fatto tutte le indagini, arriva da lei, da Alessandra Calegari o dal dottor Sciacchi. Che cosa le dite? Anche perché la localizzazione precisa di un disturbo racconta. Infatti, cioè, la bocca e qualche volta anche dei disturbi alla gola, quindi fastidi alla gola, gola stretta, eccetera, ci fanno pensare che ci siano dei problemi che hanno a che fare con il dire, con il parlare, con il dire la propria verità. E è chiaro che all'interno del panorama stress che abbiamo individuato essere anche molto vasto, una fonte di stress enorme e di frustrazione è quella di trovarsi in situazioni nelle quali poi non possiamo effettivamente dire la nostra, no? Dire il nostro no o semplicemente dire quello che pensiamo. E penso che gli ascoltatori avranno mille occasioni. Facciamo un po' una lettura della localizzazione di alcuni disturbi. Un altro ascoltatore, se Marinella è ancora all'ascolto, ci scrive la sua diagnosi, ad esempio, perché questa lingua che brucia di Marinella ha scatenato gli ascoltatori. La lingua che brucia è la candida. La signora faccia il test di farmacia per rilevare eventuale candidosi. Grazie all'ascoltatore, forse Marinella l'ha fatto, ma noi procediamo con questa lettura psicosomatica dei disturbi che dopo analisi, diagnosi, eccetera, non c'è niente di patologico, ma il disturbo persiste. Dottore. Per esempio, i disturbi di tipo dermatologico hanno quasi sempre una componente legata allo stress, alla psiche, fortissima, perché in fondo la pelle, se noi guardiamo, è l'organo più grande del corpo umano e quindi la più adatta a mostrare un disagio che è interno, che viene mostrato all'esterno. Quindi tutto ciò che ha a che fare con psoriasi, pitiriasi, insomma, ci sono tanti disturbi che hanno una componente psicologica che magari vengono slatentizzati in un momento oppure di particolare ansia, di particolare fatica. E esatto. La pelle del resto è l'organo di contatto col mondo. Certamente. Quindi è proprio l'involucro di separazione e contenimento insieme. Esattamente. Ci siamo focalizzati sugli aspetti che lo stress lascia sul nostro corpo, ma naturalmente invade anche la nostra mente. Quando siamo sotto stress, prendere delle decisioni diventa difficile. La paura di sbagliare paralizza, e se vi trovate in questa condizione voglio leggervi una frase che io mi sono appuntata da un libro che ho letto con grande piacere, di cui voglio parlarvi. Si chiama Parliamo di musica ed è di Stefano Bollani, che scrive: l'errore nel jazz può essere una porta che si apre. Credo che questa sia una regola che non vale solo per il jazz, ma lo chiedo direttamente a Stefano Bollani, che è in linea con noi. Stefano, ciao. Buongiorno, ciao. Allora, l'errore, scrivi tu nel tuo libro, che io consiglio, bellissimo, tra l'altro lo presenti anche oggi a Milano, se riesco vengo a vederti. Sì, che già a Feltrinelli in Piazza Piemonte. Ecco, però tu dici, e io me la sono scritta, che l'errore può essere una porta che si apre, e questo secondo me aiuta, soprattutto quando siamo paralizzati dallo stress e non sappiamo che pesci pigliare, abbiamo sempre paura di sbagliare. Succede nel jazz, ma secondo te anche nella vita? Beh sì, perché in realtà il jazz, tutti lo sanno, non è un genere musicale, ma è una grandissima metafora della vita. Quando è bello e funziona, è la società ideale. Il jazz è un mondo dove no, ci sono persone che vanno su un palco, magari si conoscono poco, ma usando quel linguaggio improvvisano un dialogo, un discorso, e addirittura vengono pure applauditi, però insomma portano insieme la musica in una direzione che è più della somma dei componenti, perché non avevano deciso dove andare, ma ci vanno tutti insieme, quindi non c'è un vero capobranco, ma ci si segue a vicenda. In questo senso l'errore è fondamentale, perché altrimenti sarebbe minestra riscaldata. Assolutamente, tra l'altro ti abbiamo visto ammirato sul palco di Sanremo. Ma io ho letto un'altra frase nel tuo libro che mi sono appuntata, sì, di Bruno Tommaso, e tu la riporti tra virgolette: andare sul palco è sempre meglio che pagare uno psicanalista. Sì, la condivido in pieno. Me l'ha detta, guarda, quest'estate. Peraltro il riferimento era molto diretto, perché aveva visto un mio concerto dove evidentemente avevo fatto qualcosa di bizzarro, perché lui giustamente ha detto: beh, insomma, dai, non ti puoi lamentare, in sintesi. Quindi, insomma, ti pagano per sfogare degli istinti primordiali. Quindi in fondo ciascuno di noi dovrebbe avere un palco come una sorta di... Questo è sicuro, questa è una cosa che io devo dire, potrei firmare e controfirmare, vale per i bambini ma vale anche per gli adulti. Gli adulti poi generalmente fanno dei corsi di qualcosa, no? A un certo punto della loro vita vanno una volta alla settimana a lezione di francese piuttosto che a lezione di yoga, sì, di danza, non so cos'altro. Però ecco, salire su un palco e essere applaudito, quindi recitare soprattutto forse, o suonare in compagnia, cioè tutte quelle cose che prevedono un'interazione con gli altri, sono fondamentali, perché nella vita noi interagiamo sempre meno con le altre persone, interagiamo per iscritto, scrivendoci degli sms, interagiamo con dei rapporti di forza e di potere, detti o non detti, fra padre e figlio, oppure fra direttore e impiegato, o fra direttore d'orchestra e musicista dell'orchestra, per cui è difficile interagire davvero alla pari, insomma. E quindi questa è un po' la tua ricetta antistress? Sì, direi di sì, è una specie di ricetta antistress, sì. Quindi se potete salite su un palco, è un palco che naturalmente non necessariamente deve essere un palco enorme. Può essere anche un palchino. Può essere sì. Anche un'occasione, può diventare anche la casa di un amico, la vostra casa, e potete condividere il canto, la musica. Comunque tu questo consigli, la recitazione? Sì, devo dire che io mi trovo ormai a farlo per lavoro, ma tiro a indovinare, sono nel campo della fantascienza, mi rendo conto, ma penso che altrimenti mi troverei 2 o 3 volte alla settimana con qualcuno in una casa, non necessariamente di fronte a un pubblico, perché poi ognuno dei musicisti è pubblico degli altri, di quelli che ha accanto, per cui insomma basterebbe essere con 2 amici a suonare insomma insieme. E chi non sa suonare può cantare, oppure sì. Può ballare, oppure può cucinare. Esatto. Ecco, l'importante è, questo me lo appunto, fare qualche cosa insieme, diventare un po' artisti e fare compagnia, come si dice. Sì. Senti Stefano, tra l'altro tu sarai a Milano, arrivi anche a marzo. A Milano, a proposito, vengo, di palco. Vengo a marzo per un evento che va in onda presso l'Hangar Bicocca il 12, per una onlus che è Missione Sogni, che si occupa tra l'altro di realizzare in pratica i sogni dei bambini che non possono realizzarli. E, insomma, oltre che a Milano suoneremo con il mio trio danese in altre parti d'Italia, suoniamo Pistoia, Bologna, Pavia, Messina, Gorizia, Torino, le sto leggendo ovviamente. Sì, beh, certo. No, lo dico per mia madre, se fosse l'ascolto, che si sente che alle 11.40 mi ricordo tutti i concerti della settimana di marzo. Le viene una botta di stress. Sì. Allora così intanto ti aspettiamo, magari passi da Radio 24 che viene a trovarci per una puntatina. Volentieri. Grazie Stefano, un abbraccio. Ciao. Grazie. Grazie a voi. Essere e benessere. Vi siete scritti la ricetta di Stefano Bollani per vincere lo stress, lavorare in gruppo, fare delle cose che ci piacciono sostanzialmente, diventare attori e protagonisti oppure spalle. Mi è piaciuta, come mi è piaciuta anche la dieta antistress. Insomma, stiamo dando numerosi consigli, poi magari intanto aspettiamo le definizioni della giornata dei nostri ascoltatori che potranno ricevere a casa un libro. Quello che mi viene da dire, in effetti, anche agganciandomi a Stefano, è l'importanza di condividere piccoli piaceri, piccoli grandi piaceri. Quindi usare la musica sempre è fondamentale, anche per ballare da soli, no? E poi condividere piaceri su piccoli hobby, passioni, cose che si possono fare appunto con le mani. Perché chi usa spesso la testa e sente la testa affollata di pensieri, veramente le ricerche lo dimostrano che dovrebbe fare qualche cosa di manuale, e questo aiuta a staccare la spina, dottor Sciacchi. Certo, assolutamente, il corpo è un ottimo antidoto contro la sovraccarico mentale. Fare piccole cose che siano di precisione oppure di fatica, magari per esempio zappare l'orto fa stancare di più, e... o lavorare a maglia. Lavorare a maglia, certo. Qualunque tipo di piccolo lavoro, la creta aiuta tantissimo, per esempio. Zappettare, piantare, irrigare. Tutto ciò che ha a che fare con le piante, sicuramente, come con il lavoro anche manuale per i piccoli hobby che si hanno. Volevamo una piccola non c'è più. Allora volevo introdurre il nostro ospite, Francesco Beldì, agronomo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Io vorrei parlare con lei di giardinaggio o di come si dice, ortaggio, orticolaggio? Orticoltura. Orticoltura, bravo, ecco. Allora, lavorare nell'orto, le persone che hanno l'orto solitamente sanno che adesso è tempo di piantare, di fare tutti i lavori per seminare, ma invece per chi si improvvisa un po' giardiniere nel balcone di casa e magari ama coltivare due pomodorini, un ravanello, i consigli suoi potrebbero assolutamente essere graditi. Francesco, che cosa possiamo fare per impegnare le mani? Per impegnare le mani questa stagione possiamo seminare i ravanelli, sicuramente, poi più avanti possiamo invece trapiantare delle piantine di pomodoro. Indico i ravanelli e pomodori perché si adattano bene al balcone. La produzione è piccola, ma non ne facciamo un consumo molto, molto ampio e abbiamo delle cose che possono stuzzicare un po' l'appetito. I ravanelli possiamo decidere se piantare quelli tutti rossi, quelli con la punta bianca, quelli più lunghi. Dobbiamo solo stare attenti ad usare dei vasi adatti che abbiano una profondità sufficiente a lasciare sviluppare. Ecco, ma quando lei dice pianta, sufficiente, cosa vuol dire? Ma vuol dire che deve essere, nel caso dei ravanelli, deve essere alto 20 centimetri, che è la dimensione normale dello sviluppo di una pianta, e comunque la dimensione di un vaso normale. Il classico vaso di geranei, scusi? Sì, un vaso di geranei, esatto. Ok, quello intanto per visualizzarlo. Per ravanelli, esatto. E per il pomodoro? Invece per il pomodoro abbiamo bisogno di vasi un po' più profondi, perché il pomodoro ha un apparato fogliare che è molto sviluppato di quello del rapanello, quindi ha bisogno anche di un apparato radicale che si sviluppa più in profondità e riesce a sostenere poi dopo anche tutta la pianta. Quindi, e poi tra l'altro ci portiamo a casa il licopene del pomodoro e la vitamina C del rapanello, si sposano bene anche in insalata, ma vogliamo dare anche un suggerimento per un balcone fiorito? Ma sì, per un balcone fiorito io consiglio di coltivare qualcosa che possa attirare le farfalle che stanno sparendo soprattutto nelle nostre città, ma anche nelle nostre campagne, perché non trovano più abbastanza polline da mangiare. E allora possiamo ad esempio seminare un alisso piuttosto che dei cosmos, del liberis, del nasturtio, della valeriana rossa, della verbena. Crescono molto bene in vaso e sono adatte a nutrire le farfalle. Magari poi se arriva alle farfalle anche un piacere vederle girare. Sì, carine, che fanno primavera. Allora, alisso, cosmo, nasturzio si seminano e si aspettano le farfalle grazie a Francesco Beldì, agronomo e autore di Bio Balcone. Non resta che andare a comprare questi semini e mettersi a zappettare, certo. E poi aspettiamo 800 24 00 24 se volete intervenire e raccontarci come vedete la vostra giornata. Collina, montagna, galleria, spiaggia, diteci voi. La libreria di Essere Benessere è aperta, ma intanto io vorrei salutare Angelo Vaira, che è in linea con noi. Angelo? Ciao! Buongiorno! Che ciao, bello averti, finalmente ti incontriamo. Esperto del comportamento del cane, agevolatore del rapporto uomo-cane, autore del libro Dritta al cuore del tuo cane, un libro che io ho amato molto. Senti, Angelo, siamo andati a zappettare in balcone, ma ci sono le ricerche che dimostrano quello che le persone che vivono con un animale a quattro zampe lo sanno bene, che anche la compagnia di un amico peloso aiuta e ci aiuta a tenere un po' sotto controllo il nostro stress o a potenziare, a nutrire il nostro stress. Tu me lo confermi, l'eustress? Sì, tu certo, mi confermi? Te lo confermo alla grande. Ma non soltanto il cane, già soltanto il fatto di viverci assieme, averlo sotto lo stesso tetto, accarezzarlo per esempio, modifica proprio la biochimica delle persone. Cioè, noi ci siamo coevoluti col cane, da talmente tanto tempo stiamo con lui che abbiamo una naturale propensione a star bene quando c'è presente il cane. Questo se non abbiamo ovviamente dei disturbi, dei condizionamenti, certo, infantili, alle intolleranze, le due intolleranze o cose del genere. Quindi il cane di per sé, vivere col cane o accarezzarlo, proprio modifica la nostra biochimica e quindi ovviamente fa bene per una persona stressata, no? Però ci sono anche delle evoluzioni a partire da questa base. Sì. Cioè, più una persona sperimenta un senso di apertura, si mette in gioco nella relazione col cane, cioè più comincia a conoscerlo, a comprenderne i bisogni, a rispettarlo, comincia ad occuparsene bene di questo cane, a comunicare con lui, più vive una rifioritura di se stesso. Perché il cane ci... A proposito di balconi, eh? Vedi? E di farfalle. Infatti mi piaceva molto come argomento anche quello lì. Lo sapevo. E quindi è proprio nel coltivare il rapporto con il cane. Angelo, ti voglio passare, come si dice, Alessandra, anche lei come me ha un cagnone, e che mi raccontava che quando tu fai gli esercizi di bioenergetica... Io ho una cagnolina meticcia, come tutti i miei cani, nera, che ha 7 anni, e quando io faccio gli esercizi di bioenergetica a casa e mi molleggio, si mette seduta davanti a me e mi guarda e sembra che partecipi. Quando poi invece mi rilasso, mi fermo a respirare, medito, sembra che mediti come me. Si mette a sfinge, chiude gli occhi ma non del tutto e entra in meditazione. Angelo, cosa penserà? Beh, io innanzitutto confermo questa visione, perché io sono un praticante di meditazione e questa cosa la faccio anch'io, addirittura anche in cambio cane, sai quella trasmissione che ho fatto su Fox Life? In una delle puntate ho insegnato ad una signora a meditare, e quando lei si è messa lì a meditare, il cane puntualmente si è avvicinato ed è entrato in uno stato di maggiore calma. Al contrario di quello che a volte fanno se noi semplicemente ci sediamo per terra a leggere un libro o un giornale. Tra noi e il cane, esattamente come con le persone, c'è un'osmosi emozionale. Quindi senza neanche entrare nel campo della perché abbiamo 20 secondi, Angelo, mandami un messaggio, perché mi sfumano, ma è un tema che mi piace molto e che riprenderò con te. Va bene. Mandaci un messaggio, quindi, che è: coltivate la vostra relazione con il cane, ci guadagnerete entrambi. Grazie ad Angelo Vaira, ad Alessandra Callegari, dottore. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Io vi aspetto come sempre domani dopo la trasmissione di Radio 24. Essere e benessere.